in quei disegni senza più serenità, niente aquiloni, solo amare realtà, niente piazzurri che colorano il cielo, solo pastelli che sporcano tutto nero. In quei disegni senza più umanità, niente sorrisi, solo gesti di libertà, niente più prati ma strade con barriere, solo guerrieri che agitano bandiere. Ma questa guerra è uno strano gioco, consuma gente, vita poco a poco, con i sassi contro quelle bombe, quelle grida contro quegli spari. In quei disegni senza più semplicità, persiane chiuse, solo graffi di verità, niente cortili così pieni e rumorosi, solo figure e volti timorosi. Questa guerra è uno strano gioco, consuma gente, vita poco a poco, con i sassi contro quelle bombe, quelle grida contro quegli spari. In quei disegni senza più serenità, niente aquiloni, solo amare realtà, niente più azzurri che colorano il cielo, solo pastelli che sporcano tutto nero. Ciao Anna, a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asile. Ma la trasmissione di questa sera, diciamo, è chiaro che è una trasmissione con gli animi tristi, arrabbiati per tutto ciò che sta succedendo a Gaza, nei territori palestinesi. Tant'è vero che non a caso la canzone che abbiamo messo dei Nomadi era la canzone di quasi 40 anni fa, la rivolta delle pietre dei giovani ragazzi, a cui lo Stato israeliano aveva impartito l'ordine ai militari di arrestare i ragazzi, ragazzi stiamo parlando, e di spezzargli le ossa, le braccia, le mani, con le pietre. Ecco, proprio spezzargli, insomma. Tant'è vero che rimane impressa nella mente, almeno di quei compagni che hanno un poco, diciamo, più grandi, rimane impressa quanto una scena rubata faceva vedere due militari israeliani che su una collina avevano portato un ragazzo, avrà avuto 15 anni, 15-16 anni, e gli spezzavano letteralmente le braccia con un macigno, un qualche cosa che era lo Stato israeliano voleva lanciare un messaggio alle nuove generazioni di allora, che non si doveva permettere di ribellare né con le fionde né con le pietre, e che, diciamo, il messaggio era quello che se gli avrebbero spezzato le ossa. Questo, diciamo, succedeva tantissimi anni fa. E all'epoca, ecco, i Nomadi furono, cioè non è che all'epoca avevamo una fase di gruppi musicali e compagnia, però i Nomadi, i ragazzi dell'Ulivo, ecco, ebbero la forza, la capacità di rompere anche all'epoca un muro omertoso. Ed è chiaro che la trasmissione di questa sera, che ha, diciamo, tutta da discutere su, di affrontare un dibattito su alcune cose, insomma, non può che non parlare di questo, insomma, di quel che diciamo sta succedendo, dell'aggressione, della mattanza, del genocidio che è costante, sistemico, dello Stato sionista e quindi dello Stato neofascista israeliano. Chiaro che noi, per dire, ecco, la trasmissione di questa sera cade anche nel 28esimo anno, diciamo, di anniversario, diciamo, del nostro centro, però faremo una puntata molto più approfondita su sta storia, non solo della, cioè, non c'è nulla da festeggiare con questi scenari e con queste vicende, però è un dato politico, ed è un dato politico che collega le esperienze di tantissimi centri sociali, quelli degli inizi anni 90, che sulla questione palestinese, specialmente della rete antagonista meridionale, determinarono forte mobilitazione e tantissimi progetti politici in sostegno alle comunità palestinesi, ai comitati della sanità, alle formazioni laiche combattenti resistenti al popolo palestinese. Comunque, su questa tematica anche dell'espressione dei centri sociali, ecco, faremo una trasmissione ad hoc. A proposito della Palestina, voglio ricordare che domani a Salerno, come in tutta Italia, dove già si stanno svolgendo da giorni mobilitazioni, domani a Pastena, nella zona orientale della nostra città, ci sarà un presidio e una mobilitazione di sostegno alla resistenza palestinese, anche per fermare la mattanza che è in atto. Allora, è chiaro che diciamo, con un altro spirito affrontiamo il dibattito di questa sera sul tema "i padroni erano, sono e saranno sempre nocivi", anche perché, come diciamo, con tutte gli scenari che diciamo in Europa e in Italia avremo a che fare, ecco, lanciare una riflessione di quel che sta avvenendo nell'ambito del capitalismo, è chiaro che, come diciamo, come compagni dobbiamo sempre, ecco, non c'è bisogno, per affrontare, essere dei provetti economisti, docenti, professori, no? Diciamo, riflettere e analizzare, cioè, tutto quello scontro che sta nell'ambito del capitalismo. Ecco, questo è un po' dai tempi a memory, dopo il crollo del muro di Berlino, che, diciamo, drammaticamente sta scandendo, in quanto pensiero modello unico imperante, i tempi della vita nel nostro pianeta e dei popoli, cioè, quindi sta scandendo i tempi dell'umanità intera, anche legata, ecco, ai nuovi scenari che scaturiscono da questa pandemia e alle potenti trasformazioni in atto che hanno, diciamo, i tempi dello sviluppo, e queste potenti trasformazioni in termini capitalistici che hanno subito un'accelerazione proprio durante l'emergenza del Covid-19. E a questo punto voglio ricordare anche ai compagni che sabato prossimo ci sarà un'assemblea, un dibattito di approfondimento, diciamo, su questa accelerazione, diciamo, in queste controriforme in atto, diciamo, che tra i recovery fund, diciamo, stanno accelerando, appunto, una trasformazione ancora più reazionaria, sempre in nome dello sviluppo e del profitto. Ricordo, sabato prossimo faremo un'assemblea sul centro sociale, che, ricordo, andrà sia in remoto per quei compagni o quelle compagne che non sono presenti in città, che non sono, possono venire per vari motivi, che in presenza. È chiaro che diciamo, questo dibattito su, diciamo, intorno alla questione del neoliberismo, dei neoliberismi, del neoliberismo, specialmente nel post pandemia, necessita una adeguata riflessione, anche perché ricordiamo che il capitalismo sta sempre nella spasmodica ricerca di identità, per porre rimedio al proprio declino, autoassolvendosi al contempo dai danni storicamente legati all'ambiente e al pianeta, sempre in nome dello sviluppo e del profitto. Ed è chiaro che fare un tipo di riflessione su queste tematiche, è chiaro che come tempo di bisogna anche rifare dei passi indietro, insomma, ricordiamo, partendo sempre dalle misure di austerità dettate dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale alla fine degli anni Ottanta, data che in cui sembra che il sistema capitalistico globale sia entrato in un periodo, entrò in un periodo di stagnazione caratterizzata dalla caduta del tasso di profitto, dalla riluttanza delle grandi compagnie ad investire e all'introduzione da parte dei governi di tassi di interesse molto bassi vicino allo zero. Ecco, parliamo un poco del 2000, per arrivare poi al 2010, dove è stato il livello più alto della fase di stagnazione del capitalismo, dove si è determinata una crisi derivata dalla finanziarizzazione dell'economia, cioè quindi finanza, assicurazione, mercato immobiliare, che che diventò più importante dell'economia reale. Ricordiamo che le imprese, le aziende, invece di investire il denaro in investimenti produttivi, ricerche ed assunzioni, usavano lo stesso per far salire il valore delle proprie azioni, per ricomprarle, e da qui ecco il detto: la finanza finanzia la finanza. Ed è qui anche la definizione del capitalismo parassitario, sostenuto anche con fondi pubblici e da tante altre forme di sostegno governative. Ecco, le aziende si preoccuparono prevalentemente dei prezzi di borsa e non della ricerca, dello sviluppo, delle risorse umane, della formazione personale, e molte corporation ebbero massicci benefici dai governi senza che fossero condizionate ad impiegarli per fare anche il bene pubblico. Esemplare il caso dell'industria farmaceutica negli Stati Uniti d'America, che ricevette 40 miliardi di dollari l'anno di investimenti, che potevano essere utilizzati non solo per sviluppare i farmaci, che ecco paradossalmente tanti anni fa, che servono, ma anche per renderli disponibili a costo sostenibile per la popolazione. Noi stiamo parlando di qualche decennio fa, insomma, che determino, la rilettura di quel che fra poco il capitalismo, con queste storie, recovery fund, eccetera, eccetera, cerca di imprimere a livello sia nazionale che europeo, insomma, per determinare e capire cosa succederà, ritornare indietro diventa fondamentale. Vediamo che è chiaro che ogni riferimento, quando parliamo di capitalismo, il riferimento riguarda in prima persona gli Stati Uniti d'America. Anche nelle due figure dei due presidenti, ex presidenti, Obama e Trump, che erano nel capitalismo internazionale, i due presidenti degli Stati Uniti d'America erano attenzionati e interessati, perché entrambi erano tesi a far uscire dalla fase di stagnazione in cui il capitalismo versava, quindi dalla fine della guerra fredda, al crollo del muro di Berlino. Come devo dire, e ricordiamo, è bene sempre ricordarla, che era una fase storica che avrebbe dovuto dare il via a un periodo di prosperità capitalista. Invece cosa abbiamo avuto? E infatti questi diciamo il sistema capitalista internazionale era contrassegnato, ma ancora è contrassegnato al suo interno dal confronto scontro tra capitale finanziario e capitale industriale. E diciamo questi due presidenti, ora lo scettro lo ha raccolto Biden, come devo dire, sono diciamo interessati, attenzionati dal capitalismo, perché diciamo sono fondamentali per, come devo dire, per far uscire appunto sempre dalla fase di stagnazione il capitalismo, in cui ancora sotto alcuni aspetti versa, e ricordiamo che la pandemia sta dando loro una mano a tutto spiano. È chiaro che per il capitalismo, quindi per la globalizzazione, per il, diciamo, per il neoliberismo globale, è chiaro che nel capitalismo suscita ci sono alcuni timori, no, di questo, il vento nazionalista, populista, che diciamo determinano, abbiamo visto, insomma, subiscono le conseguenze della crisi finanziaria di prima e ancora oggi, specie dopo la post pandemia, che determina rabbia nella gente. Quando parliamo di crisi finanziaria è bene sempre ricordare quel che successe sempre negli Stati Uniti d'America nel 2010, quando 120.000 case furono pignorate, nessuna delle persone impiegate nelle banche nel settore finanziario responsabile della crisi fu chiamata a rispondere legalmente delle proprie azioni. Vediamo che sempre dal 2010 le ripercussioni della crisi finanziaria si sono risentite a livello internazionale in tutti i campi, dalla sfera economica, imprenditoriale, sanitaria, determinando in termini esponenziali povertà ed iniquità sociale in tutto il pianeta. Ed è chiaro che le enormi conseguenze di quella crisi finanziaria ancora persistono, e specie una fase storica caratterizzata dall'assenza della lotta di classe e dalla piena crisi della sinistra internazionale, incapace di interpretare e fare proprio la rabbia e l'insoddisfazione popolare. Questo un po', questo, diciamo, ritornare un po' indietro con il tempo serve anche per comprendere cosa è in atto, diciamo, che scenari si prospettano diciamo da qui ad andare avanti. E ricordiamo che il ruolo della pandemia, che i primi tempi sembrava a noi essere una valida compagna, in quanto aveva snaturato, aveva fatto uscire fuori tutte le contraddizioni del capitalismo che si ripercuotevano sulla sanità, sulla scuola, sull'ambiente, e man mano, e quindi anche un sistema di carattere di militarizzazione del territorio, ecco ora la pandemia, questo Covid e tutto quanto il resto delegato alla pandemia sta andando in soccorso al capitalismo, quindi al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Europea, e quindi alle varie forme di governo, che è compresa anche il nostro, quello di Draghi, che diciamo è proprio il degno esempio di questo nuovo scenario, proprio valida e fedele espressione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Europea. E ora diamo un attimo un po' di musica. Thank you. Siamo tornati più arraggiati da ieri. Più passo tempo, più ci facciamo scura. Siamo tornati e ci facciamo venire. Parliamo, faccio, non teniamo problema. Capitalisti che debbono, come devo dire, sono alla ricerca continua di autoassolversi. Allora possiamo, noi diciamo, possiamo portare un piccolo esempio, no? Cos'è il capitale, perché sono nocivi i capitalisti? Prendiamo un esempio molto terra terra. Quando Michele Zagaria, capo indiscusso del clan dei Casalesi, arrestato nel 2017, nel covo, oltre alle immagini su di una parete con Che Guevara e Padre Pio, nel portale personale del boss fu trovato il Vade Mecum sulla nuova figura dei boss. Dovevano parlare tre lingue, dovevano avere la laurea in scienza ambientale. C'è quindi i casalesi, dalla Lupara, Tritolo, eccetera, alla formazione ambientalista. In pratica, dai profitti derivanti dallo scempio ed inquinamento ambientale provocati in tutti i decenni, ai nuovi profitti per disinquinare e decontaminare. Quindi il capitalismo, il profitto, è sempre nocivo e quindi mette in atto tutta una serie di progetti, di programmi, non solo per auto, come detto prima, autoassolversi, autolegittimarsi, insomma, ma anche perché per porre rimedio ai danni che storicamente il capitalismo ha determinato, insomma. E diciamo, ecco, per dire, questi, di fronte a questi, ai disastri ambientali, agli scenari apocalittici derivanti dallo sconvolgimento dei climi e che attendono il nostro pianeta, diventa normale e doveroso mettere in atto tutto ciò che è utile almeno per la riduzione del danno recato al pianeta dallo sviluppo capitalista. Questo è il nostro compito, insomma, ma pure questo PNRR del governo che è fondato sulla triade crescita, concorrenza, competizione, prevede grandi investimenti ma nessuna reale conversione sociale ed ecologica, solo una modernizzazione green e digital dell'attuale modello fondato sulla mercificazione organica di persone, ambiente, servizi sociali, beni comuni. Cioè, allora, è come, e qua ritorniamo indietro sempre di un po' di diciamo, ecco, più di 20 anni fa, quando diciamo in America, è sempre loro, quanto in America, ecco, devo trovare un poco le carte, quanto in America, come devo dire, ecco, un gruppo di 200 aziende americane, fra i quali Amazon, Morgan, BlackRock, General Motors, allora, manda in pensione il mantra degli azionisti, diciamo, guidato al capitalismo americano e mondiale per decenni, con il nuovo motto che, in cui si presentavano alla pari, in cui l'azionista doveva essere alla pari, l'imprenditore, il padrone, alla pari dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori, delle comunità. Le aziende devono proteggere l'ambiente e trattare i dipendenti con dignità e rispetto nel proseguire profitti di lungo termine agli azionisti, afferma il Business Roundtable in un documento che, diciamo, accantona quel capitalismo sponsorizzato e sostenuto da quell'economista Milton Friedman che guidava la Corporate America, che l'ha guidato per decenni. Cioè, quindi, come stavo dicendo prima, la questione, ecco, di quel che ci prospetta è proprio questa, che in nome del green, in nome di queste robe, diciamo, in nome dello sviluppo, cosa ci prospettano? Ci prospettano un futuro abbastanza incerto, abbastanza pericoloso. Allora, mo per dire, diciamo sta questione che l'economia, ecco, veniamo pure a una questione anche di carattere economia produttivi in Italia, parliamo dell'auto e diciamo le ultime cifre parlano che la filiera italiana delle auto è a rischio senza 1 milione di veicoli e diciamo perché non si, cioè, ci sta, quindi diciamo la produzione di autoveicoli è in netta riduzione, insomma, e dobbiamo porre un'attenzione particolare alla nascita di Stellantis, che diciamo scuote un settore che vale ancora il 20% del PIL, pari a oltre 340 miliardi. E diciamo, e questa nascita di Stellantis appunto, sconta costi e oneri dall'energia alla burocrazia e serve appunto per reagire ai costi, gli oneri, costi all'energia, alla burocrazia e per diciamo aumentare la competitività all'estero. E vediamo che diciamo il Carlos Traves, proprio della Stellantis, ha lanciato dei messaggi a Sistema Italia in occasione quando fu presentata la fusione tra FCA e la PSA, che nello escludere la chiusura di stabilimenti in Italia, però, come devo dire, non è che le ha totalmente levato da mezzo, cioè l'ha esclusa momentaneamente, che la guerra delle fabbriche, come devo dire, cioè la Fiat, come sappiamo, insomma, con la, diciamo, l'associazione che mo è fusa con la Fiat Chrysler, ha rilevato importanti criticità, cioè mentre Stellantis non esclude, esclude i licenziamenti, chiusure di fabbriche, però ha rilevato importanti criticità. Dicendo che i costi di produzione della Fiat sono più alti di quelli nelle fabbriche in Francia e in Spagna. Allora, come devo dire, questo, infatti si parla che ora che, diciamo, le fabbriche dovranno, questo gruppo della Stellantis vorrà produrre auto a idrogeno, auto elettriche, allora la produzione, proprio per i motivi che ho detto prima, delle criticità italiane, verrà trasferita, determinata in Spagna, e magari in Italia, diciamo, il gruppo, quello che è il gruppo Fiat italiano, farà solo le centraline delle auto, mentre le auto verranno fatte in Francia e in Spagna. Però ecco, diciamo, c'è una diversa visione industriale fra le due aziende che si sono unite, cioè quella francese e quella italiana della Fiat, e da cui ne esce fuori la robustezza degli impianti francesi e la fragilità di quelli italiani. E questo però ci fa anche riscontrare che cosa? Che la fabbrica, ancora una volta, la chiave strategica per aprire una porta sul futuro e per serrare tristemente il portone sul passato. Nella storia della Fiat FCA gli impianti sono stati più volte decisivi nella definizione del profilo tecnico industriale, nella fissazione dei rapporti di forza fra capitale e lavoro e nella rimodulazione dell'anima identitaria di quelle che per oltre 100 anni è stato il primo gruppo manufatturiero italiano. Allora, questo che sta a significare? Sta a significare che, allora, in Italia il prodotto manufatturiero, per ciò che riguarda anche la produzione di macchine e compagnie varie, sta proprio ridotto a zero. E non peraltro i guai combinati dalla Fiat di trasferire in America, diciamo, la produzione delle macchine, dare alle Fiat, MELF, insomma, quelle che sono in Italia, quelle di fare pezzi delle macchine da mettere, da inglobare nella Fiat della Chrysler in America, la tutta, insomma. Allora il problema, diciamo, che scenari e che prospetti ci stanno per ciò che riguarda, diciamo, il manufatturiero italiano. Allora, è qua che i dubbi vengono, no? Che con questo governo, dopo i sussidi, ora il tempo della crescita. L'unica via per uscire dall'emergenza è premere sull'acceleratore dello sviluppo economico investendo ogni risorsa disponibile. Ma il problema è di capire, la crescita, l'acceleratore dello sviluppo economico, la transizione, la sburocratizzazione, a cosa sono volti? Sono volti soltanto diciamo, ad una dipendenza totale dell'economia italiana da quell'economia europea e del Fondo Monetario Internazionale, oppure ad una capacità di produttività anche a livello nazionale? Noi, come abbiamo visto, a livello manufatturiero l'Italia non ha nulla, insomma. tutte le grandi produzioni, una volta che era da quello, noi ricordiamo la Ferrero, ricordiamo anche la questione di quelle manufatture legate anche all'artigianato, sono tutte state esportate all'estero. Quindi ecco che, come devo dire, l'ulteriore quando ci propinano dei messaggi avveniristici, è chiaro che non ci sta nulla ad avere a che nulla da stare tranquilli, ed è normale che le fabbriche chiudono. Abbiamo il caso della Whirlpool, della Embraco, che dipendono sempre di più dalle economie estere ed internazionali, insomma non vi è un'autonomia di produzione. Questo ragionando da un punto di vista di produttività, anche in termini di legame e di manutenzione e di mantenimento della ricerca, diciamo, della rigidità operaia, cioè di posti di lavoro. E qua, se andremo a vedere il prodotto interno lordo, diciamo il crollo, i deficit, i debiti che continuano ad aumentare, sempre l'inflazione, cioè il deficit è arrivato all'11,8% quando prima della pandemia non bisognava, era il 3% era considerato insostenibile. Allora ecco che i dubbi vengono, e vengono tantissimi dubbi, ed ecco perché è importante sempre di più, come devo dire, cimentarsi su forme di analisi, di riflessione, perché diventa fondamentale, insomma. Non solo rilanciare i movimenti di lotta nei posti di lavoro, fuori dei posti di lavoro, ma è fondamentale avere una consapevolezza degli scenari che ci attendono, e dalle vicende internazionali alle vicende locali il quadro non è per niente buono. Allora, cari compagni, allora ritorniamo, siamo a fine trasmissione. Volevo ricordare quei due appuntamenti: domani per la mobilitazione a Salerno, dalle ore 17:30, piazza Caduti di Brescia a Passi, nella zona orientale della città, per la Palestina, e anche l'iniziativa di sabato prossimo, presso il centro sociale, un dibattito importante su cosa ci aspetta il futuro, tra digitalizzazione, dominio, controllo, e trasformazione di rapporti eccetera, lavorativi eccetera eccetera. E ricordo che la trasmissione si farà sia in remoto che in persona al centro sociale, presumibilmente dalle 18, però daremo più informazioni, più ragguagliate, anche perché rientrerà pure nelle iniziative del 28° anno di esistenza e di resistenza del nostro centro sociale. E abbiamo altri compagni che sono venuti a trovarci. Vabbè, se non hanno nulla da dire, anche perché devono preparare l'altra trasmissione, vabbè, un saluto a tutte le compagne e compagni, mi raccomando, sosteniamo tutte le forme di resistenza, sia in Italia che all'estero, in primis i palestinesi e le comunità curde. Alla prossima. One in the out. Steve Case ripeto super carcere, Giovanni. Nato e cresciuto a Secondigliano. Terzi, 5 figli e una bella famiglia, ma tutto quanto chiamavano Giovanni Palestina, Rindorione. Perché Giovanni se lo aveva che fia quello, manca in stagione. A quando una volta era vista in televisione un'operazione in israeliana in dei territori, era pensato, ma esagerato, questi creature che avevano tenuto preto contro carri armati e spendono le bannere, allungano e corrono per non si fa scarpe scarpe. Una cosa che succedesse pure là di qua, i curresti arranzassi assieme a tutto quanto. Giovanni Palestina, un fedaino combattente, e ci fosse un risultato che mi potesse mantenere. A me, Giovanni Palestina, che manca celerino in coppo stadio, ci fanno a correre a presa, così Giovanni si immaginava questa impresa, senza sapere che l'aspettava una bella sorpresa. E che ci mancano ancora due strofe prima che Giovanna diventa palestinese. Sarò in due mani, un arrano che se non ti hai a Palestina. Vai per Nablus, per scambia, ma non spontano, sti via Palestina. E pareva assai lontana, sto campa senza rimane Palestina. Pura secondia una vita prende in mano con la Palestina. Una mattina Giovanni scendette casa a ferie, perché abbiglia una stecca e fumo rinde pelle, ne era fatta manco vinto 30 passi, cavarette guardi mezzi e palazzi, con un posto e blocca via Bagù, e Giovanni pensai vedi tu, e come l'altra sera in televisione a Palestina, che guardi che cane, con l'israeliano che cerca una cocca assassina, ma invece non sta solo un morto sparato in terra, la mamma loco vicina che ha chiesto di spera, a vinta e nera, pensai ancora Giovanni camminando piano, casa mora ogni mattina, che non è secondigliano, è a Palestina, e allora pure sono palestinese, perché pure per me la vita è un'impresa, ma Giovanni non sapeva la sorpresa, e che ci manca ancora una strofa e una parte musulmana prima che Giovanni diventi veramente palestinese. Scara mai malina, che non è secondigliana a Palestina. Vai con Nablus per scambia, ma non spontana sti via Palestina. E pareva assai lontana, stu campa senza rimane Palestina. Ma pura secondigliana, li difende in mano con mia Palestina. We'll be right back. Ci manca mezz'ora e scrivendo sto finale brutto, ma brutto.